Europa 24. Quello che mi ricordo più di tutto era la sensazione che stavamo aprendo un nuovo capitolo della storia. Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, nel giorno del suo compleanno, ma soprattutto nel 25esimo anniversario oggi del Trattato di Maastricht, di cui ha detto: «Sono l'unico sopravvissuto di quelli di allora, siamo rimasti solo io e l'euro». Un saluto da Anna Migliorati, oggi compleanno appunto del Trattato di Maastricht, cerimonia a Bruxelles in cui Juncker non ha mancato di scherzare ma anche di mandare messaggi chiari. I know that I will be 25 years older. That's not an enthusiastic perspective. Quello che so per certo, ha detto, è che tra 25 anni io avrò 25 anni di più e questa non è una bella cosa. Ma poi ha aggiunto: spero che l'Unione Europea tra 25 anni, tanti quanti ne sono passati dalla firma del Trattato di Maastricht ad oggi, resti un partner influente a livello mondiale. Per questo deve preoccuparsi della sua stessa difesa. Gli Stati Uniti, indipendentemente da Trump, ha proseguito, non sono più pronti a farsi carico della nostra sicurezza. Serve un'agenda della difesa. E in Europa, ha ricordato, esistono 174 tipi di armamenti diversi, negli Stati Uniti 26. Un tipo di carro armato e uno di fucile in Europa sarebbero abbastanza, aggiunto. Si lavora intanto in vista anche di un altro appuntamento importante per l'Europa unita, il Consiglio europeo della prossima settimana, del 15 dicembre. Sul tavolo ci sarà infatti il progetto per l'attesa revisione del Trattato di Dublino, quello che regola l'arrivo in Europa dei migranti e la registrazione di chi avanza diritto d'asilo. Ora serve un accordo, ha detto il commissario Avramopoulos. We are not there yet, but as I said before, it is very important to adopt a common policy. È molto importante raggiungere un'intesa tra i 28 sul sistema. Non sappiamo cosa il futuro riserva all'Unione Europea e tutti gli Stati membri devono essere ben preparati, ha ribadito. Spero che tutti i governi, in modo responsabile e costruttivo, contribuiranno a trovare una soluzione comune, ma ancora non ci siamo. Se avessimo avuto 2 anni fa un sistema europeo d'asilo unico, l'Unione Europea non avrebbe dovuto confrontarsi con una crisi tanto enorme. Vertice che sta terminando in questi minuti, tra l'altro, senza il ministro italiano Gentiloni a Roma, come abbiamo sentito, per la crisi politica. E dopo le regioni tocca anche ai sindaci. Tra oggi e domani sono riuniti in Vaticano i sindaci europei per parlare di migranti e di accoglienza. Il tema, le modifiche attese al Trattato di Dublino. A Roma anche i sindaci delle zone simbolo d'Europa, Lampedusa, Lesbo e Calais. Intanto, a poco più di un anno dallo scandalo Dieselgate, sono partite 7 procedure di infrazione verso altri tanti paesi che hanno presentato i rapporti richiesti dalla Commissione sui loro sistemi di omologazione e controllo delle emissioni delle auto. Non c'è l'Italia, vuol dire che da noi va tutto bene? Laura Bettini l'ha chiesto ad Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria. Beh, no, direi che c'è da aspettarsi qualcosa, nel senso che effettivamente già sono emerse delle informazioni fornite sia dal governo sia dai fabbricanti d'auto, in particolare dall'FCA Fiat, che sono molto simili a quelle, diciamo, consegnate dall'Inghilterra e dalla Germania. La differenza è che l'Italia ha fatto un rapporto solo sugli Euro 5 e quindi, diciamo, la Commissione non avrebbe potuto in questo momento procedere nei confronti dell'Italia perché non ha una documentazione completa. Quello che emerge da questa notizia è l'assoluta importanza di far procedere il progetto di legge su un'autorità europea indipendente che soprintenda alla omologazione dei veicoli. Niente vimbrulè, niente bancarelle, senza gara pubblica. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che anche gli stand dei mercatini di Natale vanno assegnati tramite un concorso pubblico, perché, dice l'Europa, le bancarelle si trovano su suolo pubblico. Il caso è stato sollevato dall'Italia, dalla zona del Lago di Garda e da alcuni centri balneari italiani. Insomma, nuove regole dall'Europa anche per i mercatini di Natale. Allora, ne parleremo questa sera a Europa Notte, come sempre alle 21. Per ora con l'Europa invece ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.